Tu hai la cucina tante, la dice divertito, perché tutto quello sono. la bottigliera che l'hai fatto tu, mi fai falta. Non so quanto ti brucia la forza. E che bello, anche a me mi piace fare quello. Tu mi danneggi a me, io danneggio a te. Poi voglio vedere, cazzo, quando vedi il fuoco ti caghi addosso, voglio vedere se mi caghi ancora il cazzo. Scusa, sto dicendo parolacce. Sì che non ho paura, mamma, ammi lo solo, mamma, non ho paura. Io non ho paura di nessuno, vedi. L'ho promesso in via dei Corsi, quando abitavo lì, in via dei Corsi 21. L'ho promesso prima che viene qualche gambo in cazzo, vado il butto giù la testa. Vado alla televisione, vado giù la busta, butto giù la butto giù. E se compri potente, a me non mi devono fare la palla nessuna casa mia. Non hai complesso. So di gente che li hanno picchiati e in più gli hanno tirato la fucilata all'antenna e gliel'hanno fatta in due da quelle parti lì proprio. Cane pure cutto, non sono dato. Ha una bassona che va in chili. Da chi si batti. Oltre a averli buttato giù l'antenna. A un altro hanno cutto la fucilata e vi l'hanno fatta in due l'antenna. Guarda, mi fa un piacere, almeno so che sei tu, vieni a picchiarmi, allora prendo l'arnese e prendo, ma sai come ti faccio? Ce l'hai presente le pedine dalla macelleria, così ti faccio, la stessa cosa, mica a me non me ne fotte un cazzo, Natalino, mica su fumacatemi, a me mi chiamano nel rione, Antonio Rumacome. Ha giudito tutto, mi conoscono bene e mi conoscono, dalla Perugia a Santa Maria di Pisa, te lo sto dicendo. Tu vieni a picchiarmi, non mi sembra vero, guarda come ti dimostro. Lui, presenta le bistecche della macelleria, così ti faccio, e che a me non me ne frega un cazzo. Un sacco di chi sei, ma ti ragiono un po' con me. Tu a me mi dici le cose come me le devi dire, io ti accetto. Se tu vieni a fare un'altra potenza, divento un'altra persona, divento tutta un'altra persona. Vai a dire, punimi, te la faccio in culo, devi venire a picchiare, mi dici, devi venire a picchiare, io. Il vuoto la faccia così in massa di voi. Ma sai come lo faccio? Mi che pure si non ve la posso ancora, perché c'ho il braccio così. Cazzo, ma come ti faccio? Vai a raccogliermi, vai. Cazzo, lo sai, ma dove cazzo l'arrivi, mi dice di cazzo, e poi sono anche dove altri. So, ogni giorno che non vuole fare, voglio vedere se ne ha finito, la mi lasci in pace, la mi prende a cucinare la cosa, io ando, ando e ti faccio un'altra cosa, perché non ne ho paura io, a me non me la fotti in me. Già lo so che sei così tu, se trovi quello più forte di te e ti cudi muro. Altro qua la base, non ti piace. Dire di venire a picchiarmi con la lingua. Ma te le immagini già quest'Antonio che cazzo mica è stata niente che a uno l'hanno pulito, non so da, ha ciappato niente più fazzinello. C'era uno in testa di palla che passava dopo rischiato la gente e se ne andava e nessuno li aveva avuto, ma lì voleva una cresta di un ragazzo e c'era uno che aveva gli occhiali grossi e aveva la faccia da sfuggito, come diciamo lui. Cazzo, fuori di giaffa, l'amico, questo qua si gira, di ricura, su, se io dico, si è ammettato che sta calando un gamba, ma non sai che qui a questo con gli occhiali? Oh, io, se salita l'hai tutto. Oh, già, oltre a quello che stai dicendo tu, veniva uno, una voce, cazzo, che era un zizzì. Allora vuol dire un zizzì. Solo che qui dentro era una macchinetta, a uno l'ha fatto, che era mera, visto da me, ed era, cazzo, un zizzì. Solo che parlando di bere i pugni non si puntavano. Una volta vi ho obbligato a Sassari, andata lì, si sbatte con due macchine e quello che aveva porto basso perché doveva dare la precedenza si è abbigliato la massima, era un tipo grosso e asso. E l'altro della macchina era Michelino e cose, sono sceso dalla macchina e ho detto cosa c'è, non vedi che sei torto basso. Ho avuto milioni, chi si è abbigliato, un cazzo, quello magro si è abbigliato, ha fatto un brinco, ha brincato di due macchine. ti recupero la banda di guida, faccio se fanno, muoviti un sacco. Ah no, Antonio sta sottovalutando l'avversario. Siamo sapendo di cibocchi, Ian, tu, che sei prepotente e buio. Però se trovi quello più forte di te, come fai? Allinga, allinga, me lo giuccia. Ognuno ha ciapanzoio, la capisci, è sempre meglio evitare, poi va, tu vai, se vabbè di famiglia va, ti devi scaccare, mo. Cazzo mi sto occupando io, e gioco che io ho paura, non ho paura di nessuno, ma di nessuno a vita. E però vedi, di tutto va quello, e cazzo, per evitare, non parlo molte volte, perché non posso parlare, se no quello non si può vedere la partita, capito? Anche lui ha diritto di vedersi la televisione, finché non risolve l'affare dell'antenna, che la qui penso io a testa, che va l'antenna pratica. Ecco, buonasera. Non è così, che sul tetto mio non si può salire, manco lui può uscire, ha detto che deve fare una botta. Ha detto che deve fare una botta, la va a poter uscire, tanto la capicchia. Quando vuoi uscire, la giamba, ha detto. Per il momento però c'è da aspettare, finché non fa questo lavoro qua per potersi piazzare l'antenna come si deve, non si può fare nulla. Uno bisogna anche capisca, no, parti subito in quarta come ti vai giù. Tanta di questa radio come la senti? Ah, io già ti sento bene. No, è così, Antù. Addirittura, no, ne vara come se ne farà da chissà di chissà mia, perché ce n'era una vecchia di 40 anni stesso, no? Che era di mia moglie, quell'antenna. Fa una cosa, se non mi sposto che ero in strada, me ne gaggio in capo e mi c'hai bideggia chissà antenna. Come se ne farà da se ha fatto i mille bici, era sola ne farà da. Ecco, buonasera. Avanti il break, buonasera. Buonasera, Gabino al Mike. Buonasera a tutta la ruota. Ciao Antonio, ciao Natalina e ciao Gianni. Ciao Gabino, buonasera anche a te. Ciao Gabino. Ben entrato. A te lo compri, Antonio, a te lo compri, Gabino. E come mai? Perché lo state vendendo? Qua c'è il culo, mette buono e tutti a me. Mi sentito, ha detto che vuole picchiare a tutti. Ma non a voi, no, anche quella roba nelle palle. Ah, lo so, mica stavo scherzando, Antù, mica lo sai. Oh, iaia. Ma ti conviene evitare, ma perché minaccia tutti hanno? A me? E non si vuole provare. E allora come ti mai questa discussione? Io acceso adesso questa discussione che se vengono a romperti le balle ti vai nuovi nuovi. Io Antonio infuriato l'ho visto solo una volta. Te lo ricordo Antonio, che sono che era andato una vicina, chissà. Ah, ho capito. L'ho fermato io la madre, il cazzo di babbo era cucato, veramente giunta. E che dovevo riesco di abitare qualche cosa per la garantina. E Antonio era, cazzo, guardiamo, cazzo, un animale, cazzo, di quelli ferucci. Cazzo, se lo vedevi, uno da una base, uno dall'altra, se non mi rimetto, che si annuia a curillo. Già lo so, cazzo, va una puzza, intanto Antonio. Cazzo, chi si mamma li manni, mi arriva di pure. Figurati, si anda qualcuno, che poco poco... Non sia forse cantando, come ti dici? Lo so, ma vabbè. Le bombole sono in irti però. Chi va, c'ha le mani, c'ha le gambe, si difende. E viene a vedere. Avanti, Gabino, buonasera. Mi vuole la tecnica, dopo via sei grosso, mi vuole la tecnica. Lo so che ci vuole la tecnica, io già messo qualche cosa di tecnica. Davvero, no, perché se c'è la tecnica con un dito e un calcio, roba veloce già in terra. Già lo so. Se per quello lo puoi anche ammazzare uno, se conosci la tecnica veramente. Fate entrare Gabino per cortesia. Gabino, avanti, avanti. Poi c'è quella maglia di la buzza. Ida salva. Vuol dire che li hanno fatti arrabbiare. Vuol dire che li hanno fatti arrabbiare. Oh già, come mai stai uscendo così saturallo? Saturallo? Forse c'è il microfono troppo vicino, guarda. Sì. Microfono troppo vicino, è vero. Ma la butta è, non sai come è fatto, non è una cosa della forza, è il fatto che uno magari è bravo e cose, quando poi ti fai arrabbiare, giri il capo e fai danno, compreso. Non è che c'hai in chi vi ha tirato la ronga, uno è bravo, un capo, tranquillo, però se gli do chi rubati invagliato, vada a voi, poi sono problemi. Poi nascono i problemi perché non è più come prima neanche, adesso ci sono gli avvocati facili, e uno schiaffo ti costa 5-6 mila euro, dipende. Sicuramente è un problema, oggi quelli di là conviene evitare il più che si può, ma neanche farsi prendere per il culo, hai capito? Già. E se non ammazzi direttamente, così paghi una volta per tutto e sbibessi più. No. Caspita, io guarda che quando la mattina si esce da casa per andare a lavorare e vedi la famiglia bella, la famiglia che prendi, torni a casa, è l'armonia, di quello che succede fuori te ne sbatti le scatole. Io ne vedo tutti i giorni di gente strana, gente prepotente, gente. Però se attaccati con ogni persona cioè devi uscire con la corazza. Quindi dai, devi pensare positivo e pensare che a casa c'è gente che ti aspetta e ciccia. Però non bisogna anche mettere le strette alla persona, perché se pure la metti troppo alle strette diventa un macello. Quando uno si gira, chi sei Maru, chi sei? No, non è Maru, lui ha bruciato un livello, il crano, quindi sei anche difeso. Poi c'è chi si difende con le parole, c'è chi gli scatta il fusibile in testa e ti muove mai in alto e ti arruineggia e manco di una pizza. Vedi Gianni, che sembra tranquillo, però se ti pone mano da ruinelli ed è calmo mi Gianni, però non gli rompere le palle che cazzo diventa male. Io bambino oggi qui ti trovo a sacco il cuore e il brodo a Terralba sono venuti questi tre a rompermi le palle, mi hanno detto che erano della squadra narcotici, che non potevo parcheggiare col camion lo stracomuso, ho detto lasciatemi andare perché sono carico di vini e cosa, e sto parlando da fuori e loro sempre appreso ove l'Uvisi, Guai, Ucci Grussi, Ughisio, Grindassa, alla fine non ve l'ho fatta più, mi sono guidato. Ti ho giocato una giusta, poi hanno avuto cose, chiamano la polizia erano tutti amici miei, mi ha detto tu fai finta di nulla, che cosa è successo, così e così, l'ho detto. E farà due giorni, chi è questo della scuola narcotici? E dice no, stavo scherzando, pure con la camarada, il poliziotto, io in macchina, via, caricato, tutti e tre da ricaricare. Oltre al danno la beffa, oltre al danno anche la beffa, ma che si sono pagliacci, che si sono pagliacci. Oh, io. Va bene. Lasciate le mani in tasca, che oggi c'è gente che vive di quello, c'è gente che si è comprato a casa da una giusta. Natalia, mamma mi ha raccontato la storia che tu hai cuttuto con la Vespa, non era parlato dalla Vespa, devi cuttuto la giusta, vero? Può pure darsi. Oh, è la volta che mi avevano nascosto la macchina dentro la stazione, non mi cuttuto in tre. Uno addirittura ha rivinto un cazzo murendi, diventa rubato. Ah, la volta che siete andati a portare le paste che avevano rotto le scale. E allora? Cazzo, era andando a casa a pigliare un fusili, se non venivano a giudarmi mio fratello e mio padre. 11 ne abbiamo picchiato il giorno. Ma tutti i vostri miei, noi erano i bambini, erano gente grande. Cazzo. E vabbè, ma voi dove faceva pugilato? Tuo fratello faceva il turismo, cazzo, cioè, tutti i capi, tu facevi karate, noia. Ma tutti i vostri, mi sanguroni laggiù da Gaddi, cazzo, in terra. Già mi era giudicata la macchina, ma hanno bucato una giusta, chi ci manco drenani accusati. Ehi, si credi in casa che ti vede in gaimo e cose. Cazzo, quando gli ero bravo è peggio di Romaro, mi ritocchi il tasto sbagliato. sono affari acidi, sono cose brutte che succedono. Allora io lo scherzo gliel'ho fatto a uno che ci porta per Travesini. Praticamente gli ha spostato il furgone, lui ha dato a quello dei Travesini e ha lasciato il buon furgone. Gli ho dato le chiavi, ho detto lui che furgone lì si è fatto lo scherzo io, pronto, l'ho fatto per farti capire di non lasciarti le chiavi dentro, ti rubano la macchina, ma vai, che no, che non toccavi nulla, vabbè, comunque lo accetto, lo scherzo, va così, l'ho fatto ragionare. Beh, vai in via mare, capì, a consegnare i Travesini, di una di un furgone con tutti i Travesini di Trento e l'hanno licenziato. Mica noi un giorno a cosa? A Unifiri. Se puoi chiamare a chi non si voleva smontare, se puoi chiamare in Chivi, e di lì devi prendere, stare zitto, subire, andartene, perché eri in una piazza chiusa dai chioschetti, dalle cose, e si è messa male perché avevano bevuto, e si voleva un gamio, e alla fine tramite uno del comitato siamo riusciti ad andare via, ma erano in 50, 60 passoli, noi eravamo in 6, e cosa devi fare in Chivi? Quando ti trovi in quelle situazioni devi stare zitto, subire, però a voi di chi sa niente, vai la fotografia in altro comodino, non vai a pigliare la nave e tagato, a baita. Di lì quando ti vedi che hai la cosa a repentaglio, la strumentazione, roba a repentaglio, di lì dice dateci soldi, dopo li avete messo in carico il tasso. Vai, e noi quanti di tu, siamo riusciti ad andare via dalle 3 del mattino, siamo andati via alle 7 da lì, alle 7 da Bugia erano le 6 e mezzo. Ah, quelle sono fogliacce, eh? Basta fare come ti ha fatto Gianfranco Ferrata, un notte ha pigliato e le facciato tutti i bancarelli. Ecco, avanti in brezza. Canto, ma non hai un rapporto di segnale, fa la cortesia, ho cambiato la posizione. Mamma mia, il segnale non lo prende, ma il sta pigliando forte. Ma capino, ma mi senti? Sì, ho col reme alto però, Antu, io ho un reme qua quasi a 8, ho un casino, se metto l'attenuatore non ti tiro fuori, dimmi tutto. Ma tu ancora bene va adesso, 1, 2, 3? Sì, va benissimo. Pace e bene a tutti, non mi si sciate, la vita è bella, ancora la vivi bene. Gianni, è da te. Che cosa c'è? Da me 9.30, lo sai, da qui non ti pussi. È a Natalino, va bene lo stesso. Sì signore, si conferma. Vabbè dai, volevo sapere se stavo andando, aspetta che trovo un'altra radio. E me non ci è arrivata. KK, sì, già. Saluto la tutteria. Tutto sotto controllo, frate. Ma poi cosa ha fatto Gianfranco Ferrata? Lo conosci tu? È stata anche un'ambulanza e cosa? Una volta, ti posso raccontare se lo conosci. Ah, non ti puzzi, no, appena ti facciato tutti i dati di bancarella orale, non si volevano spostare, appena ti facciato tutti i bancarelli, e ce ne è andato con un camion. Ma chi, quale è il busseddu vasti, se non sei attento, e dava giù il busseddu, la busciacca, verranno i butti sempre busciacca la busseddu. Ma che culo sta nel busseddu, ha detto, beh, non ti puzzi, no, ti metti un mancato, di notte, c'erano tutti così, tre bancarelle in giro, ha potuto mostrare un camion, ha caricato un pacco, cioè la roba l'ho messo, ma proprio un po' è facciato bancarelle. Invece una volta stavamo scendendo a Portotoro con Pullman e c'era questo autista che era sempre schissato, non lo potevi chiedere un favore, gli altri ti facevano scendere, siccome era il Puma degli strumenti, io gli chiedevo sempre di scendere in via Bonivia perché se no poi ci usciva in via Balai, me la dovevo fare tutta a piedi, capito? All'Nautico andava. E gli ho chiesto se se per cortesia mi faceva scendere via delle video, capito? Questo qua è uscito di Gabu, io non faccio scendere a nessuno, e allora se era stato possibile, allora vediamo in su, ha capito che lui sta campando perché noi vediamo in su, insomma è successo un casino. Questo qui si è alzato, gli voleva mettere le mani allo sai, se erano in mule, questi gatti, i passeggeri, i maschi, chi vira, no, compreso io. Beh, fatto sta questo innervosito, cosa ha fatto? Ha preso, è partito a razzo, non ha aperto il puma, c'erano le barcarelle, l'ha messo tutti i barcarelli. Cazzo che si ribaccare di cura dei fratelli e tu passavi in mezzo, era di giovedì mi pare, sì, il giorno che c'erano le bancarelle, cazzo se ne avevano fatto 3 o 4 bancarelle, dopo ha compilato dentro tutti quanti con le mani, mi prendi il disegno con le mani, dopo uscite in giornale. Casotto, è un casotto, un casotto. Però già è bassa, già vita l'ha passato, la parte fatta non ti può chiudere che quello è sequestro di persona. Quello è sequestro di persona e non ti può chiudere, non può chiudere le cose così, ma si ha buffonelli. C'è veramente fuori di gabba qui. Comunque. E la cena di gente strana in giro. In giro c'è Mondezza, eh. In giro adesso trovi Mondezze megagalattiche e non trovi mostri. Poi sono tutti fanno MMA questi ragazzi, ragazzini di 22, 23 anni, 30 anni. Sogna Cristiano. Visi andi cudi, niente. A Porto Torres già c'è un po' la mania del pugilato, la potenza. Io mi ricordo che un giorno sono dovuto scaricare in via mare e c'era il carico e scarico Mirci, questo qua si è messo con la macchina sopra e stava leggendo il giornale. E io sono sceso dal camion, l'ho suonato e faccio la finta di nulla, sono sceso dal camion e ho detto se per cortesia si poteva spostare che c'era il carico e scarico Mirci, certo che non la fottia un cazzo, ha detto. Ah, uscire. Ha detto va bene, non c'è problema, io le chiamo i carabinieri, le chiamo a Gatti Biazzi, non me ne ho più, dai che stavo lavorando, capisci, no, due manate a faccia quella via. Già, ma adesso non è più come prima, prima degli anni 80, 85, a Pugiatora va niente in cui avvero, da sapigli, come te Dugnarucu, come in ogni posto, Porto Torres però era il paese fuggili bravi, era però come in ogni posto, oh, già. Niente, non bisogna pisare la fai, Mimì. No, non è che la gente devi tirare la sua palmi. Devi stare, ognuno deve stare i gancari sui, e rispettare, basta, non avere nessun tipo di odio per nessuno, perché intanto se va in giro con lui a fare casino ne ci si cuffa e basta. Ehi, lo so, infatti anche io sono per la pace, che a me mi piace dire le cose tranquillo, eccetera, poi se non la comprendi, come quello lì, cavolo, mi ha detto che non ne fregava, non ripeto la frase, cioè, essendo in torto marcio, perché cavolo, è sul carico che scarico Mirci, dicendogli se per cortesia, chiesto per cortesia se si poteva spostare perché dovevo scaricare, ha detto che non ha fottia nulla, a chi sono maleducato, a chi dice non è una biglia dura che cavano da Mufighiri, biglia da re, a chi se non me l'aveva detto una cosa del genere, soprattutto magari è una persona che non capisce niente di lavoro, perché se vedi una persona che sta lavorando e ti chiede una cortesia devi prendere e devi rispettarla, invece no. Però, magari pure da autoruso, però poi lo trovi. Poi tu lo trovi e non scappi, quando trovi il tuo non scappi, perché poi la bui c'è guai, la bui si muove in mezzo a vulcati, si muove in mezzo a cose e non si scappa, gli avvocati costano. E io sinceramente gli dà a nessuno e non ha più tutto da. Quindi teniamoci la calma. Ah beh, KK, infatti conviene vivere tranquilli, vivere sereni, io ho un carattere molto pacifico, però non mi devi bussare in bili. Io sono pacifico di carattere, cerco sempre con le parole di risolvere le cose, E poi c'è sempre un limite anche io. Ah, io pure qua non cerco nessuno, nessuno proprio. Guarda che non mi viene a rompermi le palle. Lo so Antu, lo so che è così. Davi, mi ha detto che stavo uscendo Saturno poco fa. Sono col Cobra e col microfono amplificato. Adesso va meglio? Sì, se parli piano sì, già, però se alzi un pochino la voce sei sempre un po' saturo, magari allontanato un po' dalla bocca o abbassa l'amplificazione. Forse l'amplificazione è troppo alta, guarda vedere. Buon passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gavino, mi ascolti, prove tecniche di trasmissione, cada gara. Ufficio controlli. Abbasso un'altra penna e se la grande. A mai da gomo. Bella, va bene. Perché era troppo forte, è vero? Era incomprensibile, andava a strappare un po', capito? Era un po' satura come voce. Adesso va bene. Questo qui è un apparecchio che è abbastanza forte, dai. Una bomba, sì, una bomba, va bene. Gava. Questo qui è il Cobra, con quel microfono che ti ho detto, quello no, non quello in offerta, quello nuovo che è uscito, che va benissimo. Io sto usando l'Intec 2W. Un Intec, sto usando l'Intec qua. Che Intec è? 430? No, il 548SX. Ma non l'avevi dato quello? È una di una marea di baracchini, è ovvio, non so proprio cosa trattare. vabbè, dai. Meglio che ce li abbi, che se si rompe qualcuno ce l'hai in riserva sempre. Facciamo girare, Antonio, riprendi e poi fai girare, dai. Gaffa. Quest'anno se mi vuole riparto anche io con i concerti, se mi vogliono nuovamente non vado più là, ma Gianni, hai deciso? Sì, se mi vogliono lì mi faccio qualche stagione così e basta, non me ne ha potuto più nulla, andare a lavorare gratis, no, non voglio più andare. Vabbè, magari qualche lavoro lo trovi prima o poi. Speriamo bene. Magari anche nel tuo campo, se cercano qualcuno che lo sai, metti la voce in giro. Sì, ma è pagatore, so. Tutti così, so. Un po' strano, so. Gli unici che pagano se li hanno già gli operai. A travaglia sì, a pagano, così. Sì. E pretesi che non hanno, no? Sì. Gavino, ma mi senti lì? Sì, Antu, ti sento, ma basso, io non è che ti copio bene, dimmi tutto. Gaffa, e quando parte la stagione vostra? La stagione nostra parte ad aprile. A Pasquetta iniziamo, dai. A Pasquetta si parte, Pasquetta, Pasqua, primo maggio, poi via dicendo fino a ottobre. Speriamo che mi chiami, neppure a me. Ma tu con chi andavi? Sì, ne ho fatto diverse di serate. Ma con chi collaboravi? No, mi ricordo, collaboravo con Roberto, collaboravo io, mi chiamava Roberto per andare lì. È un service di, ce l'abbiamo detto io l'altro giorno con Luca, non è di Sassari, comunque fa concerti grossi. Ah, ma con Cristian, con quello di Cremule è andato. Ho capito. No, noi iniziamo ad aprile, vabbè, io adesso lavoro per conto mio, però con la stagione si inizia ad aprile. Però la verità, quest'anno non lo so se io ci partecipo, perché non lo so, vediamo un po', perché ho altri progetti e vediamo un pochino. Mi sono un po' stufato. Allora sei tu il tecnico dell'audio, no? Io non sono tecnico, io prendo, esco con la struttura, diciamo che sono il preposto, io non faccio proprio il tecnico, io prendo e decido cosa fare, e poi ci sono i tecnici che vengono da fuori, i tecnici che vengono da Cagliari, trovano tutto piazzato, io monto sia audio che luci, facciamo tutto, non, io sono un giulli. Tranne che tecnico, perché se mi metto tecnico lo faccio, però non mi interessa farlo, quindi non per fare, diciamo che con noi chi è tecnico è un ingegnere, capito? Non è uno che fa karaoke. Sono persone che guadagnano 400 euro la giornata. Sono ingegneri del suono. Ah, ora ho capito. Sei quello che li mette a punto l'impianto, così? Sì, è il fonico, c'è il fonico da palco e il fonico luci. Io praticamente esco la struttura, monto il ring, monto tutto, monto l'americana, monto quello che c'è da montare, e poi arrivano i tecnici e si arrangiano. Smonto, guido, però non ne voglio sapere io di tecnico. Cioè il palco lo monti tu, ragazzi? No, il palco no, il palco lo monta il comune. Noi montiamo solo la struttura, l'audio e le luci. Ah, ho capito. Sì. Faccio capito. Natalino, avanti. Sì, no? Perché non intendi quei suoni strani, certo, gli trema la piazza con quei super. Cosa, tu? Ce li avete i segnali rosa, poi? Sì, è bene, noi abbiamo tutto, abbiamo il processore, abbiamo, diciamo, il settaggio per i sub, per le feste, abbiamo tutto, il rumore in rosa, tu stai dicendo. Basta, sta cercando un rumore di sub, e poi fa quei frusci strani, mi casino. Quelli sono i settaggi, quello sono quello che regola l'ambiente. Lui si sta facendo tutti i settaggi dall'ambiente in cui deve mettere il suono, capito? Le frequenze che possono dare fastidio, tutto, si fa tutto, non è più come prima, adesso è tutto computerizzato. Uia. Sto guardando su subito, guardate che la roba del radio mi sovrintende. Voi andate a comparare e vanno tutti quanti di fetto. Charlatani, guys. Avanti, Natalino, che tocca a te. È un bel lavoro, Viene impegnato, ma è un bel lavoro. È un lavoro che portavo di sacrificio, anche devi dormire il furgone, per la fresatura, tutto quanto. No, là, per noi facevamo la serata e poi ce ne ritornavamo di domani. Ah, non ti vi travagliarmi, in poche parole. Sì, tu dalla notte puoi montare, e mica lascia la fresatura lì. Ma tu lo sai, Antù, le volte che io sono uscito di domenica e sono entrato a casa dopo sei giorni, io ti posso dire una cosa, che siamo stati quattro giorni dove eravamo? A Sedilo, perché con Dolce Nera, e poi siamo andati, poi abbiamo fatto il concerto della Bertè, l'abbiamo fatto noi a Olbia, a Golfaranci quest'anno, capito? E poi siamo stati due giorni a Golfaranci, siamo rimasti una settimana fuori, ed è certificante. Grazie. Mangia Verudanto. Verudanto, già, ti manca io, sai che non Verudanto, e se no fa cosa su cui travagliare, bella gloria. No, ma dico, sì, sacrifici si fanno, ma c'è il tanto. Invece Antonio, puoi dire, stava lavorando e non lo pagava, allora è meglio che vuole lavorare. Sì, ma Antonio deve fare una cosa. Antonio appena entra a lavorare deve mettere le cose in chiaro, devi dire, guarda che io, al primo mese che tu non mi paghi, a parte il fatto che voglio l'assicurazione appena entro a lavorare, non è più come prima, vai a lavorare, vieni a lavorare e già ti pago, non è più come prima, tu appena io entro a lavorare e se mi fai un contratto, anche a tempo determinato, può essere di 6 mesi, 3 mesi, una settimana, ma gli vado un contratto. E voglio il denaro quindi, perché se no tu mi pongo l'avvocato e tu mi gaghi di denaro, maragana. Non bisogna andare a lavorare così alla carrona, ma che non vai a giornata, però deve essere una persona tranquilla che sai, che ti dice, vai tu 10 euro a ora. lavora, ci viene a lavorare, facciamo 8 ore tutti i giorni, ti pago, così sei una botte di ferro. Però andare a lavorare per una vita, magari in nero pure, e dopo un mese non ti danno neanche i soldi, e allora in chi, cioè io me ne vado, e mi nando lunga che cosa, tassellato, oh, dai, giusto, ma fammi di denaro che non mi hai dato. Ma se il prendesi dall'inizio ti scartano, capito? Io guarda, so come sono i principali, perché vedevo nella mia vita cosa, se vedevano che uno pretendeva oppure diceva questo, gli dicevi una cosa, non è compito mio, ci ricudiali subito. Il compito non è mio, quello è giusto, perché non è che io sono entrato qua, sono entrato a lavorare per prendere, ho una qualifica e sono diplomato, sono laureato, sono entrato per fare informatica e noi abbiamo una munda a lavare i bagni. Cioè per cosa ho studiato io? Poi se uno è assunto come manovale, come apprendista, quello è un altro, sono un altro paio di maniche. Però io c'è uno che è qualificato, io per prendermi la qualifica, uno fa il discorso, io per prendermi la qualifica l'ho fatto anche il matto, quindi non è che posso venire con te perché sei, che non sei il più bello del mondo, non sei il più bello del mondo che prendi, mi fai fare quello che vuoi, no, ti serve una persona a pulire i bagni, assumi una persona a pulire i bagni, io faccio il mio dovere, basta, finito lì, mi assunto per quello. Cioè bisogna smetterla di che, perché noi facendo sul posto del lavoro, quando si fa tutto, sembra così, ma stai togliendo il lavoro a un'altra persona, capito? Lo so Gaghi, però io per dire la stessa magazziniere e facevo il mio lavoro, ci è mancato di sera il pescivendolo, mi hanno chiesto di fare anche il pescivendolo, io la sera facevo il pescivendolo, stavo agli scaffali, facevo il pescivendolo, loro vogliono gente che possono praticamente nel momento del bisogno sfruttare la persona, capito? Cioè che sappia fare tutto, non ne vogliono più gente così che fa solo un lavoro e come dici tu ho studiato per quello e non faccio altro, no? Loro, lo so che è sbagliato, però loro vogliono gente che si adegui a tutto, capito? Si adegui, se deve stare alle casse, sta alle casse, se deve stare agli scaffali, sta agli scaffali, se deve fare... Allora io stavo agli scaffali, quando c'era gente andavo e facevo il pescivendolo, io sistemavo la merce, poi quando arrivava la gente mi spostavo e andavo in pescheria. Loro vogliono gente così per non assumere altre persone, capito? Ecco perché vogliono quello, non perché non si può fare, loro vogliono gente così per non assumere altre persone. E non è giusto, perché si toglie il lavoro a una persona come può essere, non lo so, Antonio che si arrangia, o Antonio o chi qualunque sia, che si arrangia magari, cioè io adesso parlo di me, io trovo un posto di lavoro magazziniere, perfetto, faccio il magazziniere, ma non posso farti anche l'autista, perché se ti faccio l'autista e sto prendendo il lavoro a un autista, capito? A una persona che sa andare per strada, poi quando succedono le cose, incidenti sul lavoro, che lavoro fai? Magazziniere, è perché avevi il furgone, è perché mi hanno chiesto di farlo, e tu sai guidare, e non ho esperienza, e allora succedono i negozi. Non fa una grinta questo discorso, non fa una grinta. Avanti! Avanti, buonasera. Mi ascoltate? Sì, ti ascoltiamo, avanti, chi sei? Doppio rullo da questa parte. Buonasera Mario, Peppe Torres, ciao Gabino, ciao Gianni, vedo che state parlando di schiavi, ne abbiamo? Ciao Mario, ben sentito, cordialità anche a te, vai. Avanti Gabino, per i saluti poi fai girare. Ciao Mario, buonasera, noi stavamo parlando dei principali furbi, ti passo Antonio da Sassari, e poi farà girare per gli altri della ruota. Buonasera di nuovo, ben sentito. Buonasera anche da parte mia, se mi senti. Ma scusate un attimo, è successo qualcosa qui, non so se mi state ascoltando. Riprendo tra un attimo, vedo che così non riesco più a ricevervi. Premetto, Gabi, che io quando facevo il pescivendolo e stavo agli scaffali, non facevo più l'autista, praticamente non guidavo più. perché quando mi hanno messo lì facevo l'altro turno e hanno messo l'altro per fare l'autista, capito? Sì, d'accordo. Uno può succedere che un giorno, due giorni, può capitare che sia male una persona, una settimana, ma quando la storia inizia a essere un vizio di un mese, due mesi, tre mesi, che da voi devo ubbigliare, posteggiare un furgone, andare a fare, posteggiare il furgone, mettere a posto gli scaffali, poi manca il pescivendolo per andare a prendere pesce, poi devo ubbigliare, pure il murro cincuro, cucendo la barola, la papura in terra, quando uso con quelli gli scaffali, manca, non mi serve il caso. Quindi assumono le persone, ci sono anche le agenzie che fanno i contratti a chiamata, quella è una buona opportunità di lavoro, che si fa il contratto a chiamata e quando serve la ditta dice mi mandi quel ragazzo perché è già impostato per questo lavoro, quindi dai lavoro a un padre di famiglia o a una persona che vuole imparare, mi segui? Cioè il giulli ci vuole sempre, però ci vuole una persona assicurata, una persona assunta, uno o due giulli, che quando manca il personale tu di fiducia hai quello, mi segui? Purtroppo le ditte non se lo possono permettere adesso con le tasse che pagano, se pagano 1500 euro a me ne devo dare 3000, tu lo sai benissimo, devo pagare tutte le tasse, cose, l'assicurazione eccetera eccetera, e non ce la fanno proprio anche volendo. Assumere gente fissa poi è una cosa, sì, prendono gente a tempo indeterminato, è proprio difficile, lo prendono proprio a tempo, magari 3 mesi, 6 mesi, capito? Però prenderli fissi adesso non fa più. No, ma infatti non bisogna prenderlo, cioè se non ti serve una persona fissa, gli fa un contratto stagionale, o stagionale o gli fa un contratto a tempo determinato. Però quella persona lì, dopo che tu gli fai il contratto a tempo determinato, che lo fai lavorare 3-4 mesi, quello può prendere e si mette anche la gran pace e dice va bene, mi prendo la disoccupazione, più mi faccio poi, mi prenderai di nuovo, e uno può anche permettersi di andare avanti con la fase, cioè di mandare avanti la famiglia, ma quando prendi e usi le persone che hai già, che è già sotto, diciamo, che è già in servizio, non va bene, secondo me non va bene. Poi lasciamo perdere le cose dell'assicurazione, che sono tutte quante stupidaggini, perché quando tu, è vero, paghi 1500 euro a una persona, paghi l'assicurazione, però la vita anche degli sgravi fiscali, quindi non dicano fesserie, perché già dai, sarebbe controproducente, no? Schiavi, sempre schiavi. Lavorare, dovete pagare la pensione a lui. No, il guai è che la gente lo fa lo stesso quel lavoro lì. Vede lo stipendio. No, guarda, non vedo l'ora di avere un altro lavoro, perché ne ho bisogno, ma ho un bambino piccolo e ho bisogno di lavorare io. Veramente è uno scandalo, è una guerra tra poveri, signori, vabbè, mi sento un attimo, dai, di nuovo a te, quando mi andrei a dura a casa e no, che mi mangia tutti i dici in macchina, non battono mai i soldi, è uscito, sì Mario, sei uscito, se Antonio sta parlando, oddio, non lo sento. Tu devi imbigliare e stanno di buono in capo, gli bastano a travagliare, sì, vieni e basta, perché prima era tutta un'altra cosa, prima si lavorava perché l'operaio si pagava da solo, l'operaio non è che uno gli sta regalando i soldi, l'operaio ti sta facendo un servizio, ti sta facendo un lavoro per far guadagnare l'azienda e per fare gli interessi dell'azienda, quindi non lo stai pagando, si sta pagando da solo, non, io la penso così. A chi sono una massa di miserabili, io quando porto qualcuno a lavorare viene sempre pagato, è sempre assunto tramite agenzia, se non lo puoi assumere assumi tramite agenzia e basta, non viene il turi, anche perché dopo uno può chiedere una disoccupazione, capito? E si passa all'inverno. Guarda cosa fanno le lampare a Porto Torres, le lampare vengono a Porto Torres, imbarcano chi vuole andare, e gli fanno l'assunzione, lavorano, li assumono per 6 mesi e poi rimangono con la disoccupazione e stanno bene. Uno dice, ma il fondo pensionistico, ehi, all'abitazione vivi insieme domani, oggi devo mangiare, in regola, però oggi devo mangiare, quindi alla pensione un domani ci penseremo. Intanto guarda, la pensione non è più quella di prima, quindi non ci sono più le condizioni di avere una pensione come quella che possono avere, diciamo, i nonni o gli zii un po' anziani. Senza soldi non si può lavorare, senza soldi uno lavora per avere un guadagno, per essere retribuito, non per la gloria o per far perdere a gà, perdere a nessuno. E io vado a lavorare per la famiglia e per i cosi miei e per le cose mie. Va bene, chi c'è rimasto in ruota? Chi c'è rimasto? Io ci sono! Positivo, allora riprenditi, io mi allontano un attimino che devo fare una cosa. Cappa, Mario avanti, Mario è andato via. No, Mario ha problemi. Ah, e Antonio? Non c'è più nessuno, là. Gabi, io sto l'ascolto là quando rientri. Antonio, ci sei? Piaccia! Oi! E dimmi tutto. Ma mi avete lasciato solo, ti ho tutto, tu. Cappa, e vabbè, là, vedrai che prima o poi lo trovi un lavoro come si deve e ci rimane non a male. No, non più. Ho deciso. E avanti. Ma funziona questo cacca, funziona. Funziona, avanti, qua. Ho acceso, non ti dice nessuno. Vabbè. Adesso già vi sento, forse si è inciugato tutto, forse non lo so. Ma funziona, si sente, pronto? Pronto, avanti. Ora ecco se funziona questo rack o no? Funziona, Claudio. Vai, com'è? Radio buona, eh? Sì. Radio calda, adesso sei Claudio il caldo. No, già c'ho freddo ancora, non ho acceso il riscaldamento, fra un po' sono caldo. Sei molto oscillante, sei Claudio. Oscillante, camminando sto. Agito con una gugna di legna. Cosa vuoi dire? Non lo so, cosa vuol dire oscillante? Aspetta un attimo. No, qua è fisso segnale, non è oscillante. Adesso mi sto dando quasi 50 watt. Gappa. Va bene, no già. Fisso, io sono già senza usarlo. E mio, adesso ho attaccato il Cobra, che non ho un po' che non lo attaccavo. Niente, ero un po' sul Galaxy che stavo provando questo microfono. E adesso ho attaccato il Cobra, che ero un po' che non lo stavo accendendo, là. No, esci bene. Stavo ascoltando anche poco fa e vai benissimo. Va bene, ti sei rimesso a posto, tutto il capo di rosmetro. Va bene. E adesso lascio accesa sta radio, se no all'inizio per la righeggia. Ehi, vabbè, infatti. Come accenderle, Claudio? La accendi o ti rivendi? O ti devi decidere a vendertela a un prezzo buono. Se non la usi è meglio venderla che lasciarla ferma. Io ero andato armato, siccome ho finito l'altra base, mi sono nuovamente tutti messi come erano prima là nell'altra casa. Adesso già li accendo, uno a uno, li accendo, li attacco l'antenna, lì c'è solo 4 deviazioni di antenna, capito? Quindi non è che posso usare i baracchini, c'è anche gli HF da usare, quindi adesso infatti ho staccato l'antenna della Gloria ISO, l'ho attaccata qua, e sta andando con la verticale, ma Sì, già buona, già va bene. La tipica radio del DAC, dai. Con che microfono stai uscendo, Cla? Cortano più tre. No, già va bene. Io ce l'ho una capsula del Tarre più 3 e sto pensando di metterla, stavo pensando ieri di metterla nelle MB più 4, però poi ho visto che andava bene, ho detto a smontarlo, a farlo.